però lo so che cosa pensa tutta questa gente. Questo è vuoto dentro ma è pieno di sé. Tutto il giorno non fa niente, sta a letto con l'influencer. Ti chiedo una foto, sì, ma non è per me. Poi ti insulto tanto per farci su due chiacchiere, citazioni su Baudelaire, anche se non so chi è. Sono poco docile, non ho il sangue nobile. So che qui chi ti disprezza compra i followers. E comunque vara cara, tu sei la mia intifada. Comunista con il Rolex di Rifondazione Prada. Con te peso le parole in un messaggio, ho messo qualche spazio in più. Che faccio? Lascio. Ti conosco da sempre, ma non ti ho mai capita, è meglio così, sconosciuti da una vita, e ogni giorno è per sempre, ogni giorno è finita, ma è bello così, sconosciuti da una vita. Ricordo le canzoni ma gli anniversari. Ho un lavoro straordinario ma che impone straordinari. Troppa gente pensa che sia sempre in ferie e si fa viaggi strani. Io più conosco esseri umani, più amo gli animali. Vogliono solo fare foto, siamo dei trofei nei display. La musica leggera pesa come un pachiderma. Vogliono un supereroe ma senza i soldi di Bruce Wayne. Quindi faccio l'eremita nella Batcaverna. Amare uno che vive in un mondo fantasy, stile libro di Tolkien, è una strada dissestata da sbalzi d'umore. A volte t'accarezzo come Elsa di Frozen. Non vorrei però ti ghiaccio il cuore. Ti conosco da sempre, ma non ti ho mai capita, è meglio così, sconosciuti da una vita, e ogni giorno è per sempre, ogni giorno è finita, ma è bello così, sconosciuti da una vita. Poi sono castelli in aria che diventano macerie. Perché darsi tutto spesso anche darsi sui nervi. Quante volte ci siamo gridati in faccia cattiverie. Ma alla fine era tutto per finta come il wrestling. Io non so cantare, non trovo la nota giusta, ma trovo la giusta nota vocale da mandare a te. So che ci conosciamo da poco, ma mi sembra che... Ti conosco da sempre, ma non ti ho mai capita, è meglio così, sconosciuto.